Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. «Sta giù!» bisbigliò Robert Jordan ad Agustin. Poi voltò la testa e agitò la mano. «Giù, giù!» ad Anselmo, che veniva verso il varco portando il pino sulla spalla come un albero di Natale. Vide il vecchio buttare il pino dietro un masso e sparire tra le rocce. E Robert Jordan guardava ora oltre la radura, verso il bosco. «Cavalleggeri!» disse piano ad Agustin. Agustin lo guardò e le gote brune incavate gli si dilatarono in un ghigno. Robert Jordan notò che sudava, allungò una mano e gliela mise sulla spalla, gliela teneva ancora lì quando videro quattro cavalleggeri uscire dal bosco e sentì sotto la mano tendersi i muscoli delle spalle di Agustin. Un cavalleggero era in testa e tre venivano dietro. Quello in testa seguiva le tracce del cavallo, guardava a terra mentre cavalcava. Gli altri tre lo seguivano sparsi nel bosco. Tutti scrutarono intorno attentamente. Robert Jordan sentì il cuore battergli contro il suolo nevoso, disteso com'era con i gomiti aperti, e li guardò attraverso il mirino del fucile automatico. L'uomo di guida seguì le tracce fin dove Pablo aveva girato in cerchio e si fermò. Gli altri lo raggiunsero e si fermarono. Seduto lì sul cavallo, il calcio del piccolo fucile automatico sporgente fuori del fodero sulla destra della sella, l'uomo di guida indicava il varco ove era piazzato il fucile mitragliatore. Robert Jordan affondò i gomiti nella terra e guardò lungo la canna verso i quattro cavalleggeri fermi sulla neve. Tre avevano tirato fuori i loro fucili automatici. Due li portavano attraverso i pomi della sella. L'altro stava seduto a cavallo con il fucile in fuori a destra, il calcio appoggiato contro l'anca. Quindi, nel guardare di nuovo la canna ben oliata attraverso l'apertura tra i rami, il dito ancora premuto sul riparo del grilletto, vide l'uomo di guida voltare il cavallo e indicare il bosco ove conduceva la traccia di Pablo. I quattro entrarono di trotto nel bosco e Agustin disse piano: «Cavrones!» Robert Jordan guardò indietro verso le rocce dove Anselmo aveva lasciato cadere l'albero. Lo zingaro, Raphael, veniva verso di loro tra le rocce, portando un paio di sacche da sella, con il fucile gettato sul dorso. Robert Jordan gli fece un cenno: «A terra!» E lo zingaro sparì dalla vista. «Avremmo potuto ammazzarli tutti e quattro», disse Agustin piano, era ancora bagnato di sudore. «Sì», bisbigliò Robert, «ma chissà che cosa avrebbe portato il far fuoco». Proprio in quel momento sentì cadere un'altra pietra e si guardò subito intorno, ma sia lo zingaro che Anselmo erano fuori di vista. Si guardò l'orologio da polso e poi guardò in alto dove Primitivo stava alzando e abbassando il fucile con brevi scatti che sembravano innumerevoli. «Pablo ha 45 minuti di vantaggio», pensò Robert Jordan, e sentì quindi il rumore di un plotone di cavalleria che si avvicinava. «Nota pures», bisbigliò ad Agustin. «Non preoccuparti, passeranno come gli altri». Apparvero al trotto lungo il margine del bosco, in colonna di due, 20 uomini a cavallo, vestiti e armati come gli altri, con le sciabole pendenti e le carabine nel fodero, e quindi, come gli altri, presero la via del bosco. «Tu ves», disse Robert Jordan ad Agustin. «Vedi?» «Erano molti», disse Agustin. «Avremmo avuto a che fare con loro se avessimo ucciso gli altri», disse Robert Jordan molto piano. Il cuore gli si era calmato ora e sentiva sul petto la camicia bagnata dalla neve che si scioglieva. Aveva un senso di vuoto nel petto. La testa di Anselmo apparì dietro una roccia e Robert Jordan gli fece un cenno di venir su. Il vecchio sgusciò di roccia in roccia e strisciò fino a trovarsi disteso vicino al fucile. «Non mi servono più gli alberi», gli disse Robert Jordan. «Non c'è bisogno di ulteriori opere di rimboschimento». Sentiva quel bisogno di parlare che in lui significava che c'era stato molto pericolo. Poteva sempre giudicare la gravità di un pericolo dall'intensità del desiderio di parlare che gli veniva subito dopo. «È un buon mascheramento, disse. «Buono», disse Agustin. «Vadano a farsi fregare tutti i fascisti. Avremmo potuto ammazzarli tutti e quattro. Hai visto?» disse ad Anselmo. «Ho visto. Tu disse Robert Jordan ad Anselmo, tu devi andare al posto di ieri. Ho un altro buon posto d'osservazione a tua scelta per sorvegliare la strada e riferirmi tutti i movimenti come ieri. Avremmo anzi dovuto farlo prima. Rimani là fino al buio, poi torna e manderemo un altro. Ma le impronte? Che farò? Passa di sotto. Appena la neve si sarà sciolta, la strada sarà tutta fangosa. Osserva se c'è stato molto passaggio di camion o se ci sono tracce di carri armati sulla strada. Questo è tutto quello che si può dire, finché non sarai là ad osservare. Col tuo permesso, chiese il vecchio, di pure. Col tuo permesso, non sarebbe meglio che andassi alla granja a domandare che cosa è successo stanotte e a trovare qualcuno che osservi il traffico, così come hai insegnato a me? Questo qualcuno potrebbe farti il suo rapporto stasera, oppure meglio, potrei tornare io alla granja a farmi dare il rapporto. Non hai paura di incontrare la cavalleria? No, se si sarà squagliata la neve. C'è qualcuno alla granja capace di questo? Sì, di questo sì, ci vuole una donna. Ci sono varie donne fidate alla granja. Che ne pensi? Prenderanno Pablo? Chiese Robert Jordan ad Agustin. Pablo è furbo, disse Agustin. Gli uomini sono forse buoni ad acchiappare uno stambecco furbo senza cani? Qualche volta, disse Robert Jordan. Pablo non lo prenderanno, disse Agustin. Certo, ormai è solo l'immondizia di quello che era una volta, ma non per niente è vivo e vegeto su queste colline e può ubriacarsi come un porco, mentre tanti altri sono morti contro un muro. È veramente furbo, come dicono? Molto di più. Qui non mi sembra che abbia dato prova di grande abilità. Come che no? Se non fosse stato molto abile sarebbe morto ieri sera. Mi pare, Inglese, che tu non te ne intenda di politica, né di guerriglia. In politica, come nella guerriglia, la prima cosa è di continuare ad esistere. Guarda come Pablo ha continuato a esistere ieri sera e quante porcherie ha incassato sia da me che da te. «Senti, Roberto», disse Agustin, «dicono che il governo si spinga ogni giorno di più a destra. Nella Repubblica non dicono più compagno, ma signore e signora. Non vorrei che vincessimo la guerra e perdessimo la rivoluzione». «No», disse Robert Jordan, «ma se non vinceremo questa guerra non ci sarà più né rivoluzione né Repubblica, e non ci saremo né io né tu, ma ci sarà solo il più spaventoso carapo». «Così dico anch'io», disse Anselmo. «Speriamo di vincere la guerra e poi di fucilare gli anarchici e i comunisti e tutta questa canaglia, eccetto i buoni repubblicani», disse Agustin. «È meglio vincere la guerra e non fucilare nessuno», disse Anselmo, «e governare con giustizia e che tutti partecipino ai benefici nella misura nella quale hanno combattuto per averli, e quelli che hanno combattuto contro devono essere aiutati a capire il loro errore». «Dovremo fucilarne molti», disse Agustin. «Molti, molti!» Batté il pugno chiuso contro la palma sinistra. «Non fucileremo nessuno, nemmeno i capi. Li correggeremo col lavoro. Io so qual è il lavoro che fa per loro», disse Agustin, e raccolse un po' di neve e se la mise in bocca. «Quale, uomo malvagio?» chiese Robert Jordan. «Due mestieri fra i più brillanti. Sarebbero?» Agustin si mise dell'altra neve in bocca e guardò oltre la radura nella direzione dove era sparita la cavalleria. Poi sputò la neve sciolta. «Toh, vaia, che razza di colazione!» disse. «Che mestieri?» gli chiese Robert Jordan. «Parla, malabocca!» «Saltare dagli aeroplani senza paracadute», disse Agustin, e gli brillavano gli occhi. «Questo per quelli che ci sono simpatici, e gli altri li inchioderei in cima dei pali da staccionate e poi li butterei giù all'indietro». «Il tuo modo di parlare è ignobile», disse Anselmo. «In questo modo non avremo mai una repubblica». «Vorrei nuotare 10 leghe in un brodo fatto con tutti i loro cojones», disse Agustin. «E quando ho visto poco fa quei 4 e ho pensato che avremmo potuto ucciderli, ero come una giumenta che aspetta lo stallone nel recinto». «Tu però sai perché non li abbiamo uccisi», disse Robert Jordan tranquillo. «Sì», disse Agustin. «Sì, ma mi sentivo come una giumenta in calore. Non puoi capirlo se non l'hai mai provato». «Sudavi parecchio», disse Robert Jordan. «Credevo che fosse paura». «Paura, sì», disse Agustin. «Paura è quell'altra cosa, e in questa vita non c'è niente di più forte di quell'altra cosa». «Sì», pensò Robert Jordan, «noi lo facciamo freddamente, ma per loro è diverso. È sempre stata una passione, è come un altro sacramento, l'antico sacramento che avevano prima che la nuova religione venisse dall'altro capo del Mediterraneo, quello che non hanno mai ripudiato, ma solo soppresso e nascosto, per risuscitarlo durante le guerre e l'Inquisizione. Questo è il popolo dell'auto da fè, dell'atto di fede. Uccidere è una cosa che si è obbligati a fare, ma noi non lo facciamo come loro». La mattina era una vera mattina di maggio. Il cielo era alto e chiaro, e il vento soffiava caldo sulle spalle di Robert Jordan. La neve si scioglieva rapidamente ed essi facevano colazione. C'erano 2 grosse pagnottelle a testa, imbottite di carne e di formaggio di capra, e Robert Jordan aveva tagliato grosse fette di cipolla col suo coltello da tasca e le aveva messe sulla carne e sul formaggio fra le fette di pane. «Sciacquati la bocca col vino», disse Agustin. «Tu sei un uomo molto strano, Inglese. C'è una grande differenza fra te e il dinamitardo che lavorò ultimamente con noi». «Sì, c'è una grande differenza. Dimmela». «Io sono vivo e lui è morto», disse Robert Jordan. «Lui era un uomo che aveva sofferto molto. E tu non hai sofferto?» «No», disse Robert Jordan. «Io sono di quelli che soffrono poco». «Anch'io», disse Agustin. «Ci sono quelli che soffrono e quelli che non soffrono. Io soffro pochissimo. Tanto meglio». Robert Jordan si portò di nuovo l'otre alla bocca. «E con questo ancora meglio». Thank you. «È strano», disse Agustin. «Da quando la Maria è con noi, Pilar l'ha tenuta lontano da tutti, più ferocemente che se fosse in un convento di carmelitane. Non puoi immaginare con che ferocia la sorvegliava. E un bel giorno arrivi tu e lei te la regala. Ah, tu che ne dici? Non è andato così. E come allora? Pilar l'ha messa sotto la mia protezione. Ah, e la tua protezione è di joder con lei tutta la notte? Ho questa fortuna. Bel modo di proteggere qualcuno. Non capisci che si può proteggere qualcuno anche così? Ah, sì, sì, ma chiunque di noi avrebbe potuto farlo. Non ne parliamo più», disse Robert Jordan. «Io le voglio bene sul serio». «Sul serio? Come non può esserci niente di più serio al mondo? E poi, dopo la storia del ponte, Maria verrà con me». «Bene», disse Agustin. «Non se ne parla più. E buona fortuna a tutti e due». Sollevò l'otre, ne beve una lunga sorsata e lo tese a Robert Jordan. «Ah, un'altra cosa, inglese», disse. «Di, anch'io le ho voluto molto bene». Robert Jordan gli mise la mano sulla spalla. «Molto, eh?» disse Agustin. «Molto, più di quanto non si possa immaginare». «Beh, me lo immagino. Maria ha fatto su di me un'impressione che non vuol cancellarsi. Lo credo. Ti parlo ora molto seriamente, eh? Senti, parla. Non l'ho mai toccata, né ho mai avuto niente a che fare con lei, ma le voglio un gran bene. Non la trattar male, inglese. Anche se si corica con te, non è una puttana. Avrò cura di lei. Ti credo. Ma senti, tu non puoi renderti conto di quello che sarebbe una ragazza come quella se non ci fosse stata la rivoluzione. Tu hai una grande responsabilità. Maria ha sofferto molto, non è come noi. La sposerò. No, questo no. Sotto la rivoluzione questo non è necessario, ma...» E crollò il capo. «Ma sarebbe meglio. La sposerò», disse Robert Jordan, e si sentì chiudere la gola mentre diceva: «Le voglio molto bene». «Ah, senti, qualunque cosa accada oggi e domani, parlo del combattimento, dammi la tua fiducia e obbedisci, anche se gli ordini ti sembreranno sbagliati. Hai la mia fiducia, dalla faccenda della cavalleria e da quando mandasti via il cavallo. Ah, questo non è niente. Noi qui si lavora per una cosa, vedi, per vincere la guerra. Se non vinciamo, tutto il resto non ha senso. E domani c'è da fare qualcosa di molto importante, di veramente importante. Dovremo anche batterci. In un combattimento occorre disciplina, poiché molte cose non sono come sembrano. La disciplina deve venire dalla stima e dalla fiducia». Mentre parlava, udì qualche cosa, un rumore lontano che copriva il suono del vento caldo fra gli alberi. Incerto, aprì la bocca e ascoltò, alzando gli occhi su Primitivo. Gli era sembrato di udire quel rumore, ma a un tratto non l'udì più. Mentre il vento soffiava tra i pini, Robert Jordan fece uno sforzo enorme per concentrarsi e a un tratto udì di nuovo il rumore debole portato dal vento. «Per me non è una tragedia», udì Agustin dire. «Non avrò la Maria, va bene. Vuol dire che andrò come sempre a puttane». «Zitto!» disse senza ascoltare, allungandosi accanto a lui. Agustin, che aveva voltato la testa, a un tratto lo guardò. «Che passa?» chiese. Robert Jordan si mise la mano sulla bocca e origliò. Ecco di nuovo il rumore, debole, soffocato, secco e lontanissimo. Ma non c'era più da sbagliarsi. Era lo scoppiettio saltellante, preciso, rotondo, di una mitragliatrice. Era come se dei minuscoli fuochi di artificio scoppiassero un pacchetto dopo l'altro, quasi inaudibili, ad una distanza enorme. Robert Jordan guardò Primitivo, che ora aveva alzato la testa e guardava nella direzione dello scoppiettio, la mano intorno all'orecchio. Guardando, Primitivo accennò su per la china verso l'altopiano. «Da il sordo si combatte», disse Robert Jordan. «Allora andiamo ad aiutarli», disse Agustin. «Raccogli la gente, vamonos!» «No», disse Robert Jordan. «Rimaniamo qui». Robert Jordan raggiunse Primitivo in un avvallamento fra due massi e il piccolo uomo dal viso abbronzato gli disse: «Stanno attaccando il sordo. Che si fa?» «Niente», disse Robert Jordan. Ora udiva chiaramente il fuoco e mentre guardava in basso vide, molto lontano, al di là della valle distante dove il terreno si sollevava di nuovo bruscamente, uno squadrone di cavalleria uscire dal bosco e attraversare la china nevosa salendo in direzione della fucileria. Vide la lunga fila doppia di uomini e dei cavalli, scuri contro la neve, arrampicarsi ad angolo acuto sulla montagna. La doppia fila superò la cresta e scomparì di nuovo nel bosco. «Dobbiamo aiutarli», disse Primitivo con voce secca e incolore. «È impossibile», gli disse Robert Jordan. «Mi sono aspettato questo attacco tutta la mattina». «In che modo?» «La notte scorsa, quelli di El Sordo sono andati a rubare i cavalli. Ha smesso di nevicare e le loro tracce sono state seguite fin là». «Ma dobbiamo aiutarli», disse Primitivo. «Non possiamo piantarli soli in un simile frangente. Sono i nostri compagni». Robert Jordan posò la mano sulla spalla dell'altro. «Non possiamo far niente», disse. «Se potessimo far qualcosa, lo farei». Attraverso il crepitio secco delle mitragliatrici udirono pesante e sordo lo scoppio delle granate a mano. «Sono perduti», disse Robert Jordan. «Erano già perduti quando ha smesso di nevicare. Se andiamo là, saremo perduti anche noi. È impossibile dividere le poche forze che abbiamo». Proprio allora l'intensità del fuoco raddoppiò e vi rimbombava dentro lo scoppio sordo delle granate a mano. «Oh, fregali!» Primitivo disse bestemmiando con assoluta devozione, gli occhi pieni di lacrime e le guance tremanti. «Oh, Dio, Santa Vergine, fregali nel latte della loro porcheria!» «Calmati!» disse Robert Jordan. «Potrai batterti con loro presto!» «Ecco la donna!» Pilar si stava arrampicando fino a loro, girando faticosamente intorno ai macigni. Primitivo seguitava a dire: «Fregali! Oh, beata Vergine, fregali!» ogni volta che il vento portava il rombo della sparatoria. Robert Jordan era andato incontro a Pilar per aiutarla. «Che tal, mujer?» disse afferrandole i polsi e sollevandola mentre lei superava con fatica l'ultimo macigno. «Ecco il binocolo», essa disse sfilandosi la cinghia. «E così oggi tocca al sordo». «Sì». «Povere», disse Pilar pietosa. «Povero sordo». Ansante per la salita, Pilar afferrò la mano di Robert Jordan e vi si aggrappò forte mentre si chinava a guardare in basso. «Come ti sembra che vada?» «Male, molto male». «E il sordo è jodido?» «Così credo». «Povere», essa disse. «Certo per via dei cavalli?» «Probabilmente». «Povere», disse Pilar. Avete sgombrato ogni cosa, Pilar? Tutto quello che si poteva portar via. Che notizia hai di Pablo? Aveva 40 minuti di vantaggio sulla cavalleria. Hanno seguito le sue tracce. Pilar gli sorrise, tenendogli sempre la mano. Poi la lasciò cadere. Non lo troveranno mai, disse. E ora pensiamo al sordo. Non si può fare niente per lui. Niente. Povero, disse Pilar. Mi era molto simpatico. Sei certo, proprio certo, che Jodido? Sì, ho visto molta cavalleria. Più di quanta ne è venuta qui? Un altro squadrone intero diretto lassù. Proprio in quel momento, Robert Jordan udì sulla sua testa l'aeroplano. Guardò in alto e su nel cielo limpido gli sembrò di riconoscere lo stesso apparecchio di osservazione che aveva visto la mattina. Ora tornava dalla direzione delle linee, dirigendosi verso le alture dove veniva attaccato il sordo. «Ecco l'uccello del malaugurio», disse Pilar. «Vedranno quello che accade laggiù?» «Certo», disse Robert Jordan, «se non sono ciechi». Guardarono l'aeroplano passare, alto, argenteo e sicuro nel sole. Veniva da sinistra. Si vedevano i circoli rotondi di luci fatti dalle eliche. «Buttatevi giù!» ordinò Robert Jordan. A un tratto, l'aeroplano fu sulle loro teste. Le sue ombre sorvolavano la radura aperta, mentre il rombo saliva al massimo di intensità. Poi passò puntando verso l'estremità più alta della valle. Tutti lo guardarono seguire la sua rotta finché non fu sparito. Poi lo videro tornare, descrivendo un largo cerchio sempre più basso, girare due volte sull'altopiano e sparire in direzione di Segovia. Il fuoco lontano e alto era quasi cessato. Solo di tanto in tanto si udiva un colpo solitario. «Credi che sia finito?» chiese Pilar. «No», disse Robert Jordan. «Da quel che posso giudicare, i fascisti hanno attaccato e sono stati respinti. Ora direi che gli attaccanti circondano i nostri. Si sono messi al coperto e aspettano gli aeroplani». Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.